24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. L'Europa rinvia la sua roadmap per rafforzare la governance economica e realizzare una vera unione economica e monetaria. Tutti gli obiettivi previsti dal rapporto dei presidenti Van Rompuy, Draghi, Barroso e Juncker sono stati rimandati a dopo giugno 2013. Per quella data Van Rompuy e Barroso presenteranno una nuova roadmap che definirà i tempi di interventi come il coordinamento ex ante delle politiche economiche e gli impegni per le riforme. Per quanto riguarda l'unione bancaria, l'Unione Europea conferma, pur con un leggero slittamento, le tappe successive alla supervisione unica adottata l'altra notte. Entro marzo 2013 i leader vedono l'accordo sulle direttive per la risoluzione delle crisi e quella sulle garanzie dei depositi, mentre nel corso del 2013 ci deve essere la proposta sull'autorità unica di risoluzione delle crisi bancarie. A slittare del tutto è quindi solo la costruzione della vera unione economica e monetaria, ovvero quel progetto pensato per rendere gli stati sempre più integrati, l'eurozona almeno, per arrivare un giorno ad avere un bilancio comune, emissioni comuni di debito, gli eurobond e politiche economiche coordinate. Mario Monti non commenta l'ipotesi di una sua futura candidatura. Non mi sembra possibile e opportuno per me entrare su questo tema, ha detto da Bruxelles. Sentiamo l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Mario Monti sdrammatizza la vicenda della sua candidatura alle prossime elezioni politiche. Mentre il presidente lussemburghese Juncker diceva che sul futuro di Monti i leader europei ne avevano parlato anche all'interno del Consiglio europeo, Mario Monti ha cercato di sdrammatizzare dicendo che non è opportuno parlare oggi di una sua candidatura. Ogni persona, ogni partito ha detto può esprimere auspici e lo fa pubblicamente quando ci sono le elezioni negli Stati Uniti. Ha ripetuto, ogni cittadino esprime la sua opinione. Ebbene, anche adesso non mi sembra né possibile né opportuno in questo momento entrare su questo tema. Nel merito del Consiglio europeo, Monti si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti che acquisiscono tutte le richieste italiane del Consiglio europeo di giugno e che aprono tutta una prospettiva per l'unione bancaria. Da Bruxelles è tutto. Grazie a Gerardo Pelosi da Bruxelles. E ieri è stata una giornata piatta per i listini del vecchio continente. Invariata Parigi, Londra ha lasciato sul terreno lo 0,13%, Francoforte ha guadagnato lo 0,19%. I listini europei chiudono senza sussulti una settimana che si era aperta all'insegna delle tensioni dopo l'annuncio delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Monti. A Milano il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni a più 0,26% e il FTSE All Share a più 0,29%. Bene di Assorin che ha guadagnato il 2,3% e BPM l'1,9%. Positive anche Generali più 0,23% che oggi hanno annunciato la riorganizzazione in Italia e 300 milioni di investimenti. Il tema della giornata è stato però Fiat. I titoli del lingotto avevano aperto con un calo superiore al 5% dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui la società starebbe studiando un aumento di capitale per sostenere l'acquisto del 41,5% di Chrysler che ancora non è di sua proprietà. La smentita di Fiat è riuscita a calmare le acque, ma a fine giornata il titolo ha comunque ceduto l'1,9%. Guido Maurino, da Radio Corp a Radio 24, il Sole 24 Ore. In calo a novembre le immatricolazioni di auto in Europa, sentiamo. Mese difficile novembre per il mercato dell'auto in Europa. Le immatricolazioni sono diminuite del 10,1%, lo rende noto la CEA, l'Associazione Continentale dei Costruttori, guidata dall'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne. E proprio il gruppo Fiat ha accusato una flessione del 12%. Tenendo conto del periodo gennaio-novembre, la flessione complessiva è stata del 7,2%, quella di Fiat del 15%, mentre la prima della classe è stata Volkswagen, che a novembre ha limato la flessione al 2,5. Nei primi 11 mesi dell'anno i tedeschi hanno venduto 2 milioni 900 mila vetture, una quota praticamente invariata rispetto al 2011. A pesare sulle vendite del gruppo torinese è il crollo del mercato in Italia, dove è arretrato del 20% rispetto a novembre 2011 e del 19,6% nei primi 11 mesi dell'anno. Peggio dell'Italia solo Cipro, Grecia e Portogallo. Quanto agli altri marchi, Peugeot ha registrato a novembre una flessione del 16%, Renault

And despite all of the difficulties, there is still a dispetto delle difficoltà che si stanno verificando, stiamo tentando disperatamente di fornire cibo, aiuti umanitari a livello medico, coperte e carburante per far sì che questa popolazione siriana riesca a gestire il freddo inverno che sta arrivando, ma la situazione purtroppo non migliora. Giusto per darvi un esempio, i prezzi del gas, del carburante e dei generi alimentari sono aumentati del 200-300% addirittura, e ovviamente per la popolazione è molto difficile gestire la crisi e per noi è difficile fornire aiuti. In Grecia sarà un Natale all'insegna della recessione. Le famiglie greche, secondo i dati della Confederazione Nazionale del Commercio Ellenico, vivono in una situazione che appena qualche mese fa sembrava impensabile. 9 greci su 10 hanno abolito le spese per il vestiario e per le calzature, 8 su 10 le spese per i divertimenti. Soltanto un greco su 4 cerca di risparmiare per paura della situazione economica incerta, mentre sempre un cittadino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, uno al limite della stessa soglia. E 2 su 4 fanno ricorso ai loro risparmi per vivere. In ogni caso, secondo la Confederazione, ciò significa che sul mercato manca la liquidità, cosa che può condurre alla sparizione della piccola e media imprenditoria. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi che ha curato la regia, grazie a voi per l'ascolto, un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.